Quando sono state pubblicate le prime riviste gay in Italia? I libri a tema lesbico erano diffusi durante il fascismo? Quando hanno aperto le prime librerie LGBTQ? Oggi parleremo della storia dell'editoria LGBTQ in Italia con Luca Locati Luciani, uno dei fondatori del Centro di Documentazione Aldo Mieli. Ciao Luca, grazie per essere con noi oggi. Ciao, grazie a te. Questa che state ascoltando è Pugno, la trasmissione di Radio Quark che tra un colpo al cuore e uno alla testa prova a spingersi in profondità nel mondo LGBTQ. Io sono Siba, state ascoltando Pugno su radioquark.com o in podcast sulle principali piattaforme di streaming. Iniziamo subito con una domanda. Chi era Aldo Mieli a cui avete deciso di dedicare il centro di documentazione di cui sei il cofondatore? Allora, Aldo Mieli è stato, possiamo dire, il primo attivista per i diritti delle persone omosessuali, nello specifico, in Italia. Era in realtà uno storico della scienza, di Livorno tra l'altro, quindi della mia regione, della Toscana, e a partire dall'inizio degli anni 20, nello specifico dal 1921, pubblicò una rivista che si chiamava La Rassegna di Studi Sessuali, in cui trattava tematiche, possiamo dire non soltanto omosessuali, LGBT, perché si parlava anche di persone intersex, si parlava anche già di tematiche trans, e lo faceva con un taglio scientifico, quindi cercando di come posso dire, togliere di mezzo tutti i pregiudizi che ancora su queste tematiche c'erano all'epoca. Purtroppo, come potete immaginare, si tratta, cioè parliamo di un'epoca in cui l'Italia aveva iniziato ad entrare nel tunnel del regime fascista, la vita e soprattutto la ricerca di Mieli su queste tematiche non fu assolutamente semplice, tanto che nel 1928 dovette andarsene dall'Italia per una sua scelta, ma anche perché il clima non era più, non gli permetteva di portare avanti le sue ricerche. Se ne andò dall'Italia, prima per la Francia e poi per l'Argentina, dove pare, tra l'altro, proprio in Argentina, che sia stato depositato tutto il suo archivio con del materiale preziosissimo e ancora nessuno non ci ha messo le mani in maniera approfondita su questo archivio. Ed è uno dei, diciamo, è una delle cose che mi piacerebbe fare in futuro. Il centro di documentazione l'abbiamo quindi intitolato a lui perché ci è sembrata una figura conosciuta magari da chi si occupa di storia LGBT+, ma non conosciuta da tutti e tutte. E quindi ci sembrava doveroso omaggiarlo, insomma, ci sembrava, anche perché non ci sono associazioni, non ci sono realtà LGBT+, in Italia che abbiano preso il nome da lui. Quindi, insomma, abbiamo deciso di farlo noi. Fino a quando si riesce ad andare indietro nel tempo? A quando risalgono le prime tracce di editoria esplicitamente LGBTQ in Italia? Allora, se parliamo di esplicitamente LGBT+, bisogna arrivare alla seconda metà degli anni 60, ma non parliamo ancora di... E parliamo nello specifico di riviste. Quando ti riferisci agli anni 60 intendi 1960, immagino. Esatto, alla seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, quindi del 1900. Questo per quanto riguarda le riviste. Iniziarono ad apparire alcune rubriche dedicate specificamente a gay e a lesbiche su riviste erotiche, in particolare su due riviste. Una si chiamava LSD, il nome proprio dell'acido lisergico, una rivista che durò pochissimo perché trattava tematiche erotiche che vennero giudicate pornografiche per l'epoca, e venne fatta chiudere dopo un anno. E all'interno di questa rivista c'era una rubrica che si chiamava La terza goccia, che era rivolta proprio ad omosessuali maschi, mentre c'era un'altra rubrica non è presente in realtà in tutti i numeri della rivista, dedicata invece ad un lettorato lesbico. Successivamente, dal 1970, appare una rubrica che si chiama Il salotto di Oscar W puntato, quindi il salotto di Oscar Wilde sostanzialmente, su Men, un'altra rivista erotica, e anche in questo caso si tratta di una rubrica dedicata specificamente ad omosessuali maschi. Poi nel dicembre del 1971, appare il numero zero di Fuori, la rivista quindi pubblicata dall'organizzazione omonima, la prima organizzazione di liberazione LGBT in Italia. E il numero zero appunto è del dicembre del 71, ma il primo numero, che avrà anche una distribuzione più ampia, è del giugno del 72, quindi qualche mese dopo. Sempre nel 72 in Italia appare un'altra rivista che si chiama Homo, ed ha rispetto al Fuori un taglio invece più commerciale. Sono presenti molte foto di nudo maschile, gli articoli non hanno, diciamo, non tutti gli articoli, anzi quasi nessun articolo ha un'impostazione politica. Ci sono articoli di cronaca, di cultura, ecco. Però è una rivista rispetto al Fuori di stampo molto più commerciale. Questo per quanto riguarda le riviste. Se parliamo di libri, in realtà libri con tematiche LGBT in Italia li si possono trovare sin dall'inizio della stampa, dal Rinascimento. Ovviamente non si trattava però di testi pubblicati da case editrici Olli soltanto dedicate a tematiche LGBT. Erano casi sporadici di testi, a volte anche testi che avevano creato delle grane agli autori, perché proprio per la loro tematica. Si tratta appunto di casi sporadici che però sono presenti nell'editoria italiana fin dagli albori della stampa, quindi dal 1500. Quindi dal 1500, dal 1500 in poi c'è sempre stata una presenza di libri a temi gay, lesbico o dintorni. A un certo punto è diventata una produzione editoriale più formalizzata e più rivolta a un pubblico LGBTQ, o è semplicemente stata un'evoluzione di quello che succedeva già nel 500, del tipo di linguaggio già utilizzato, che naturalmente ha portato a una produzione più contemporanea? No, allora c'è da dire che per tutti i secoli, fino alla nascita di un movimento gay e poi LGBT+, cioè per tutti questi secoli, dal 500 fino alla seconda metà degli anni 60 circa, era molto difficile trovare testi in cui i personaggi LGBT fossero descritti così, in una chiave positiva. La maggior parte dei testi che uscirono in questo arco di tempo in Italia avevano personaggi LGBT, però spesso magari descritti in una chiave negativa, o magari c'era un finale non proprio piacevole, in cui appunto il personaggio LGBT di turno veniva fatto morire in maniera anche non carina, ecco, insomma, c'erano dei finali a volte sembrava quasi che per tutti i personaggi LGBT ci dovesse essere una predestinazione alla morte, alla vita veramente errabonda, e quindi la descrizione di questi personaggi era spesso negativa. Non è sempre così, però sono rari i casi in cui invece personaggi LGBT sono descritti in una maniera più positiva. Poi un cambiamento avviene in maniera più evidente a partire, diciamo, dalla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, con la nascita di un nuovo movimento, oggi diciamo LGBT+, ma all'epoca lo chiamavano movimento di liberazione gay, e anche con una nascita di una nuova ondata di femminismo, che portano appunto alla creazione di testi in cui personaggi omosessuali maschili e femminili hanno finalmente una valenza positiva e anche di orgoglio, cioè portano avanti un discorso anche di rivendicazione del proprio orientamento sessuale. Quindi questo cambiamento in positivo, secondo me, lo si può notare soprattutto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Non ci sono ancora però all'epoca case editrici specificamente LGBT+. Questo lo possiamo vedere, magari le prime case editrici di questo tipo in Italia nascono verso la metà degli anni 80. In particolare, per quanto riguarda la narrativa lesbica, la prima casa editrice specificamente lesbica si chiamava Estro ed era stata fondata da Liana Borghi, femminista che è stata particolarmente importante in Italia perché è stata tra le persone che hanno fatto conoscere le queer theories sul nostro territorio, ed è stata anche la fondatrice di questa casa editrice nell'85. Poi, per quanto riguarda invece libri non tanto di narrativa quanto libri fotografici, in questo caso la prima casa editrice gay, in questo caso, era la casa editrice creata dalla rivista Babilonia. Babilonia è stata una rivista gay, poi LGBT, fondata nell'82 e chiusa nel 2009, quindi la più longeva in Italia per quanto riguarda l'editoria LGBT+. Alla fine degli anni Ottanta, Babilonia crea anche una sua casa editrice che pubblica soprattutto libri fotografici, quindi libri di nudo maschile. E nel 96 pubblica anche due annuari che si chiamavano La Fenice di Babilonia, in cui erano presenti vari saggi dedicati alla cultura e alla storia LGBT. Questi sono i primi due esempi. Facciamo un salto indietro per un secondo. Sì. Torniamo un secondo all'Ottocento, alla fine dell'Ottocento. La situazione in Italia, sì, prima del fascismo, era una situazione in cui era sviluppata un'editoria che trattava anche di temi LGBTQ, in parte sullo stesso filone di quella che era la produzione cinquecentesca e successiva, quindi con una caratteristica negativa, una caratterizzazione negativa del protagonisti o dei personaggi LGBTQ, ma non solo, c'era anche un altro tipo di pubblicazione in Italia alla fine dell'Ottocento. Di che cosa si trattava? Beh, allora, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento iniziano ad apparire in Italia alcune riviste scientifiche in cui le tematiche LGBT+ vengono trattate in una maniera appunto scientifica e priva di pregiudizi. da un lato, devo dire, cioè, questo non vale per in tutti i casi, cioè perché c'erano anche alcune riviste scientifiche come quelle legate ad esempio a Lombroso, in cui come posso dire, la trattazione delle tematiche LGBT era sempre in una chiave negativa. Altre riviste, come ad esempio l'archivio delle psicopatie sessuali, nome orrendo, detto oggi, ma che all'epoca ebbe una certa importanza, perché riuscì appunto a portare all'interno della divulgazione scientifica una trattazione delle tematiche LGBT senza pregiudizi. E fu il primo caso appunto all'interno della dei periodici di tipo scientifico in Italia di trattazione appunto senza pregiudizi. Venne fondata nel 1896 dal medico e docente napoletano Pasquale Penta, e durò soltanto un anno, quindi ebbe veramente una durata brevissima, però è diciamo un caposaldo per quanto riguarda la trattazione di tematiche LGBT in una chiave diciamo più vicina a una visione moderna, ecco, e sicuramente con meno pregiudizi rispetto a riviste che erano uscite prima e anche contemporaneamente. Poi c'è la rassegna. Scusami, i collaboratori, sì? Di queste riviste erano persone dichiaratamente omosessuali o dichiaratamente lesbiche, o non era una cosa che poteva succedere all'epoca dichiararsi pubblicamente, o semplicemente non era il caso ed erano persone che si dichiaravano eterosessuali e pubblicavano testi di carattere scientifico sulle persone e sulla situazione omosessuale? Guarda, c'è da dire che molte di quelle persone che collaboravano a queste riviste in realtà portavano avanti anche ancora delle teorie non piacevoli riguardo alle persone LGBT. Quando io parlo di riviste in cui la trattazione è più positiva, priva di pregiudizi, parlo comunque di alcuni articoli, ma molti altri saggi contenuti in queste riviste erano scritti da persone che invece non avevano una visione ancora così illuminata, insomma, tra virgolette. E per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, non mi risulta che alcun collaboratore, alcuna collaboratrice di queste riviste fosse dichiarato o dichiarata, tranne appunto Aldo Mieli, il fondatore della rassegna di studi sessuali, ed è l'unico caso forse in Italia di persona che comunque viveva la propria sessualità, il proprio orientamento sessuale in una maniera più meno più fuori dell'armadio, ecco, rispetto ad altri. Quindi esisteva una produzione principalmente di carattere medico all'inizio del Novecento, ed esisteva anche una pubblicazione, immagino, più clandestina, più meno strutturata, legata alla pubblicazione di fotografie di carattere erotico maschile principalmente, mi viene in mente. Era sviluppata questa situazione ed era una produzione italiana o era una produzione estera che arrivava in Italia? Allora, sicuramente paesi come la Francia, ma anche la Spagna negli anni 20 e 30 avevano una produzione di materiale di questo tipo maggiore rispetto all'Italia. Però anche l'Italia, soprattutto dopo l'unità d'Italia, dopo il 1861, inizia ad avere una propria produzione di libri, anche libri fotografici a carattere erotico e anche vagamente omoerotico in alcuni casi. Non è, diciamo, allora, in realtà la pornografia non era qualcosa che potesse circolare così liberamente, erano testi comunque che venivano venduti sotto banco. Poi c'era in realtà un erotismo più blando, magari di romanzetti rosa, in cui era presente una forma di erotismo non propriamente pornografico, che venivano venduti invece più alla luce del sole, ecco, nelle librerie. Però per quanto riguarda una pornografia, una produzione pornografica vera e propria, esisteva, e spesso testi, diciamo, più salaci, quindi più anche magari con illustrazioni più a carattere propriamente pornografico, spesso erano prodotti in Svizzera, quindi al confine con l'Italia, e la produzione svizzera, diciamo, metteva al riparo poi chi li stampava un po' dal controllo poliziesco italiano, e poi venivano smerciati sul mercato italiano. Questa era la situazione all'inizio del Novecento, quella che stavi raccontando, in una situazione appunto italiana in cui alcuni materiali circolavano sia a livello medico sia a livello clandestino, in modo più o meno diffuso. Che cosa successe durante il fascismo? Durante il fascismo, allora, il controllo per quanto riguarda la stampa diventò veramente pressante, quindi la possibilità anche di pubblicare testi erotici o in cui si potesse trattare di tematiche LGBT divenne praticamente impossibile, ecco, cioè non fu quasi impossibile stampare, produrre testi di questo tipo. Ti posso raccontare un aneddoto su un libro del 1933, se non sbaglio, che si chiamava Il suicidio di un esteta, in cui la trattazione, cioè il protagonista era un omosessuale, e la storia, la descrizione di questo personaggio era in chiave assolutamente negativa, non c'era assolutamente una, come posso dire, un'apologia dell'omosessualità. Ciò nonostante, il testo venne requisito e tutte le copie bruciate o veramente distrutte, perché definito appunto testo pericoloso per la semplice trattazione appunto della tematica omosessuale, nonostante poi all'interno aveva più una valenza negativa, ecco, nel trattare la descrizione del personaggio. Quindi divenne veramente quasi impossibile produrre testi sia erotici che con personaggi LGBT. Questo succedeva anche per testi che avevano come protagonista donne? Anche per testi con protagoniste donne, tranne rari casi. Ad esempio, un testo della scrittrice tedesca Christa Unisloh, dal titolo Ragazze in uniforme, da cui venne tratto anche un film, tra l'altro, in cui neanche tanto vagamente venivano descritte relazioni amorose tra alcune ragazze all'interno della trama del testo. Ecco, questo testo in realtà riuscì a circolare abbastanza liberamente, e tra l'altro pubblicato da una grande casa editrice, la Mondadori. Quindi ci sono dei casi in cui in realtà poi questa censura così opprimente poi magari si lasciava sfuggire, ecco, qualche testo. La censura era censura solo del fascismo, degli apparati del fascismo, o anche quella della Chiesa Cattolica? Era soprattutto una censura fascista, mentre una censura di stampo cattolico la si aveva già prima del fascismo, ma non aveva mai portato, diciamo, ad un controllo così opprimente. Il fascismo, secondo me, ha dato veramente una svolta in negativo. Anche dopo, se vogliamo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia continua ad esserci una censura, però qualche testo riesce poi a sfuggire, ecco, da un controllo democristiano, ecco, insomma. Mentre invece il fascismo era veramente molto zelante, non soltanto sui libri, cioè anche per quanto riguarda le riviste, i quotidiani. Era molto difficile trovare articoli in cui si parlasse di persone LGBT italiane, quasi impossibile. I pochi articoli che tu puoi trovare su persone LGBT in epoca fascista riguardano persone LGBT straniere. Quindi come a far credere che questi fossero vizi presenti unicamente all'estero. Quindi il fascismo, nonostante mandasse al confino le persone omosessuali, nonostante applicasse una repressione sulle vite delle persone lesbiche, gay e bisessuali e trans in Italia, negava di fatto la presenza del problema dal loro punto di vista omosessuale. Quindi non c'era una censura esplicita e non c'era più che altro una trattazione esplicita del tema da parte del fascismo stesso. Dunque, in realtà iniziano a trattare in una maniera più zelante, in negativo, tematiche nello specifico omosessuali a partire dalle leggi razziali, perché associano molto spesso l'omosessualità alla questione ebraica. Quindi si possono trovare alcune riviste come La difesa della razza, che era una rivista in cui si parlava spesso delle persone che dovevano essere ritenute italiani di serie A e delle persone che invece dovessero essere ritenute italiani di serie B, e si parlava ovviamente degli ebrei in maniera negativa, e si associava spesso, si diceva spesso in alcuni di questi articoli che tra vizi, tra virgolette ovviamente, degli ebrei c'era anche quello dell'omosessualità. Quindi a partire soprattutto, ecco, dalle leggi razziali in Italia, le tematiche omosessuali iniziarono ad essere trattate in negativo con più frequenza. Come accennavi prima, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine del fascismo in Italia, la censura continuò. La censura contro libri e riviste a tema LGBTQ. Esatto, esatto. In che forma e che spazio riuscì comunque ad avere l'editoria LGBTQ in quel momento? Ma allora, diciamo che, come dicevo prima, la censura continuò ad esserci, anche zelante, ma non così opprimente come in epoca fascista. Quindi alcuni testi anche di autori stranieri con tematiche LGBT riuscirono poi a penetrare nel mercato librario in Italia, e poi vennero pubblicate nuovamente alcune riviste a carattere scientifico in cui la trattazione delle tematiche LGBT era diciamo si cercava di togliere nuovamente pregiudizi sulle tematiche LGBT. E due di queste riviste, ad esempio, furono Scienze e Sessualità, fondata nel 1951, e se non sbaglio in pubblicazione fino al 1953, e Sesso e Libertà. Sesso e Libertà era la continuazione di Scienze e Sessualità, che durò soltanto per un anno, nel 1953. A queste due riviste collaborò Bernardino Del Boca, il quale era molto vicino ai movimenti di liberazione omosessuale presenti all'estero all'epoca, che si erano autodefiniti come movimento omofilo, si erano dati il nome appunto di movimento omofilo. Bernardino Del Boca era vicino al movimento omofilo straniero, soprattutto alla rivista Der Kreis, Svizzera, e a Arcadie, pubblicata in Francia, e su Scienze, Sessualità e Sesso e Libertà cercò di portare le istanze omofile anche in Italia. Cercò tra l'altro anche di creare una rivista omofila che avrebbe dovuto prendere il nome di Tages, è il nome di una divinità etrusca. Però il progetto fallì perché il tesoriere fuggì all'estero con tutti i soldi che erano destinati alla creazione della rivista. Quindi fu un po' sfortunato da questo punto di vista. Quindi c'era già un tentativo di aggiungere una caratterizzazione politica alla pubblicazione di libri e di riviste. Già stiamo parlando degli anni 40 qua. Stiamo parlando dei primi anni 50. Quindi Quindi tra il 51. i primi esempi di utilizzo politico dello strumento editoriale, dello strumento libro e dello strumento rivista, li vediamo in Italia intorno agli anni 50. Precedentemente mi pare di capire che fosse principalmente narrativa o un approccio medico, e quindi una rivista di carattere medico, o pornografico erotico. Sì, però con Aldo Mieli, nella rassegna di studi sessuali, c'era già anche un approccio politico, perché Aldo Mieli era comunque in collegamento con i movimenti di liberazione omosessuale tedeschi e spesso parlava all'interno della rivista di quanto stesse accadendo in Germania. Quindi non c'era soltanto un approccio medico-scientifico, ma c'era un approccio già anche politico, se vogliamo. Pensarci Questo con Aldo adesso, Mieli, solo con lui. sembra quasi incredibile che potesse esistere una rete così estesa a livello europeo, di rapporti tra persone che portavano avanti un ragionamento politico legato all'omosessualità. Quanto era grosso questo tipo di movimento, questo tipo di scambio di informazioni e di riflessioni a livello europeo? Quante persone erano coinvolte e quanto era visibile, magari in altri paesi e non tanto in Italia? Beh, allora, per quanto riguarda l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, era molto esteso. Cioè, ovviamente non esteso quanto poi sarebbe stato il movimento nato dopo, negli anni 70, ma era piuttosto esteso. Soltanto in Germania, ad esempio, erano presenti circa una ventina di riviste specificamente omosessuali e altrettante organizzazioni specificamente omosessuali. Io parlo del periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se prendiamo poi il periodo, diciamo, della Repubblica di Weimar in Germania, anche in quell'epoca in Germania c'erano decine di riviste, decine di organizzazioni e centinaia di locali. Però era un caso più che altro isolato, legato alla Germania, nel periodo tra gli anni 20 e il 33. Mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale il movimento si estende a molti paesi europei, tutta la Scandinavia, l'Olanda, la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna anche, e gli Stati Uniti. Quindi, diciamo, dopo appunto la fine della Seconda Guerra Mondiale, il movimento di liberazione omosessuale si estende. E non si può, non, cioè, ovviamente non ti so dire il numero di persone che effettivamente erano coinvolte all'interno di queste associazioni, ma nell'ordine delle migliaia, probabilmente delle decine di migliaia, se calcoliamo sia Stati Uniti che Europa. Per quanto riguarda l'Italia, non c'erano, come ti dicevo prima degli anni 70, delle organizzazioni LGBT, specificamente LGBT, ma c'erano delle persone che avevano collegamenti con le organizzazioni estere, come Bernardino Del Boca, appunto. E in Italia le riviste estere circolavano. Ad esempio, una tra le riviste che circolavano più facilmente era Arcadie, una rivista omofila francese, che veniva acquistata con facilità, cioè bastava varcare il confine e andare in Costa Azzurra, che tra l'altro all'epoca, negli anni 50 e 60, era una meta molto friendly, e era facile trovare numeri di Arcadie nelle librerie, ecco. Quindi si tornava a casa dopo una vacanza, magari in Costa Azzurra, anche con qualche numero di Arcadie. Quindi stiamo parlando di una diffusione comunque per canali ufficiali, visibili, all'interno di librerie, non una diffusione esclusivamente clandestina, di mano in mano, nel segreto delle abitazioni. Dipende da nazione a nazione. Alcune nazioni avevano una rivista in cui la distribuzione era su abbonamento, soltanto su abbonamento. Tu ti abbonavi alla rivista e ti arrivava a casa. Altre nazioni invece in cui oltre all'abbonamento c'era anche una distribuzione in poche librerie, tra queste nazioni la Francia anche, appunto. In Italia c'è mai stato una cosa del genere o era tutto tramite abbonamenti e tramite servizio postale? Ma allora hanno iniziato a circolare riviste con rubriche gay nelle edicole a partire dagli esempi che ti ho citato prima, quindi dalla seconda metà degli anni 60, con la nascita delle riviste erotiche in Italia, le rubriche, le tematiche gay iniziarono a circolare anche all'interno dei chioschi, dei giornalai, cioè queste erano riviste che potevi trovare in qualsiasi chiosco, ecco, non in maniera clandestina, ecco. Nonostante poi questi chioschi fossero sempre soggetti a controlli della polizia, perché è vero che erano riviste pubblicate alla luce del sole, non in maniera non clandestina, però c'era sempre qualche questore zelante che magari le faceva sequestrare per le tematiche che trattavano. Prima hai accennato che negli anni 50 e 60 l'editoria femminista, l'editoria che si stava sviluppando in modo molto, molto intenso, l'editoria femminista che si stava sviluppando in modo molto intenso in quegli anni, aveva un rapporto abbastanza stretto con l'editoria LGBTQ. Come succedeva questo scambio? Che tipo di rapporto c'era e da dove avveniva? Allora, più che anni 50-60, credo che si debba parlare del periodo che va dalla fine degli anni 60. Lo scambio non è sempre stato, cioè non c'è sempre stato uno scambio, devo dire la verità, perché spesso i canali legati all'editoria femminista erano canali separati la distribuzione di alcuni di questi testi era una distribuzione separata rispetto magari all'editoria gay. Cioè, ad esempio, Il Fuori o altre riviste nate dopo come Lambda avevano una distribuzione militante legata soprattutto, appunto, a movimenti extraparlamentari friendly, oppure una distribuzione proprio legata ad eventi specificamente gay, non so, durante una manifestazione o davanti a un locale si cercava di vendere riviste come il Fuori o come l'Anza, mentre libri, riviste specificamente femministe in cui si poteva trattare anche di tematiche lesbiche erano spesso venduti nelle prime librerie delle donne che stavano nascendo all'epoca in Italia. Quindi la distribuzione non era sempre, cioè avveniva per canali diversi. Poi ci sono in realtà delle persone che militavano nel movimento femminista e che furono anche poi alla base del movimento gay in Italia, come ad esempio Maria Silvia Spolato, la quale aveva militato nel collettivo di Via Pompeo Magno a Roma, un collettivo femminista, e però, come molte molte di voi sapranno, è stata anche là tra le persone che hanno creato il movimento gay italiano. Con movimento gay io però non, cioè, utilizzo il termine nella sua forma originaria, cioè quindi non mi riferisco ad un termine riferito soltanto all'omosessualità maschile. Il movimento gay degli anni 70, cioè il termine gay negli anni 70 era riferito, aveva una valenza un po' più ampia, ecco, perché poteva essere riferito anche all'omosessualità femminile. Era un termine ombrello che comprendeva un po' tutto quello che non era eterosessualità, fondamentalmente, esatto, in quegli esatto. anni. Sì. In quegli anni, stiamo parlando ancora una volta degli anni 60 e 70, sì. Iniziarono a essere prodotte molte fanzine LGBTQ, all'epoca LGBT principalmente, il concetto di queer è un po' più contemporaneo. Sì. Che ruolo hanno avuto le fanzine? Che ruolo hanno avuto le produzioni che non passavano necessariamente attraverso i canali editoriali tradizionali? Diciamo che alla fine degli anni 70 nascono i primi esempi di proto-fanzine, anche se forse non si potrebbero nemmeno definire tali. Erano come ad esempio casi come il Vespasiano degli omosessuali, che era un numero unico pubblicato ed edito dai collettivi omosessuali milanesi, o come Dalle Cantine Froce, un altro numero unico curato dal docente Corrado Levi, personaggio importantissimo per il movimento gay dell'epoca. E non le potrei definire vere e proprie fanzine, sono appunto dei numeri unici con un'impostazione diversa rispetto alla rivista, un'impostazione più creativa anche a livello grafico, simile, se vogliamo, a quelle che poi sono state le fanzine nate successivamente. Negli stessi anni nascono poi delle fanzine, ma che non sono specificamente LGBT. Ad esempio fanzine in cui si parlava di musica punk, si parlava di controcultura, sempre appunto nel periodo che va dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80. Se vogliamo parlare di fanzine specificamente, in questo caso queer, la prima in Italia è stata Speed Demon, nata all'inizio degli anni 90 a Milano e pubblicata ai primi anni 2000, ora non ricordo di preciso la data dell'ultimo numero. Però ecco, in questo caso si può parlare di nascita, di primo esempio di fanzine queer. Gli anni 90, secondo me, sono stati il decennio in cui c'è stata una vera e propria esplosione di fanzine, soprattutto legate a istanze queer più che LGBT+. è il decennio in cui iniziano a circolare le queer theories in Italia, e molte di queste fanzine sono vicine ad un femminismo queer o alle stanze queer comunque. Abbiamo fatto un percorso partendo dal 1500 fino agli anni 90. Ci sono dei temi che si ripropongono in continuazione in questo tipo di pubblicazione fin dal 1500 ai giorni nostri, o le tematiche affrontate nell'editoria LGBTQ cambiano in modo significativo in funzione dell'epoca? Beh, se posso dire una tematica che è rimasta costante, non si può trovare sempre. Cioè, nel periodo che va dal 1500 agli anni 60 non è che si trovi in maniera così costante, ma c'è stata comunque in questi secoli, è la tematica del desiderio. Il desiderio omoerotico è sempre stato presente. Cioè, pensiamo ad esempio ad alcuni componimenti del Coppetta. Il Coppetta era un poeta di Perugia, attivo nel 1500, e all'interno di alcune sue poesie si trovano appunto già elementi di desiderio omoerotico. Questi elementi si possono ritrovare non con frequenza, ma si trovano per tutti questi secoli, fino appunto alla fine degli anni 60, e secondo me appunto il desiderio omoerotico è la costante. Poi ci sono invece tanti altri temi che sono trattati in maniera diversa, cioè le vite delle persone LGBT sono trattate in maniera diversa, si passa da una trattazione negativa a una trattazione invece sempre più in cui la descrizione è risente appunto di un orgoglio e una visione. Ecco, diciamo, si passa da una trattazione delle vite delle persone LGBT spesso in chiave negativa a una trattazione in cui l'elemento dell'autodeterminazione, del proprio orientamento, della propria identità di genere è fondamentale. Quindi la descrizione delle vite delle persone LGBT non è una costante, non è sempre uguale in questi secoli, mentre invece il desiderio, questo secondo me, anche se magari descritto in maniera diversa, il desiderio omoerotico è sempre presente. Tu sei un avido collezionista e archivista da parecchi decenni ormai. Qual è il periodo della storia dell'editoria italiana che trovi più affascinante? Ma probabilmente è il periodo che va appunto dall'Unità d'Italia al fascismo, perché è un lasso di tempo in cui iniziano a comparire alcuni libricini erotici o anche alcuni testi propriamente pornografici, dove sicuramente anche con spesso cadute nel sessismo, cioè sono testi che visti oggi ci farebbero storcere il naso, ma in questo lasso di tempo però si inizia a parlare di erotismo, anche omoerotismo, con una franchezza che prima era assente. E a volte è interessante vedere anche come l'elemento omoerotico sia invece dalla parte, diciamo, ho parlato di desiderio e quindi di una visione anche, se vogliamo, positiva del desiderio omoerotico. D'altro canto invece ci sono testi in cui la forte componente antimonarchica o la forte componente iconoclasta aspetta, trovo i termini e faccio una frase compiuta bene, perché voglio praticamente vorrei dirti che l'odio anche verso la Chiesa si accompagna anche spesso a una trattazione dell'omosessualità in maniera sempre più frequente, sebbene non in chiave positiva. Ecco, anticlericalismo, esatto, esatto. Okay. Esatto. Quindi ecco, secondo me il periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del fascismo è interessante perché si tratta sempre più spesso di tematiche LGBT, da un lato trattando il desiderio delle persone LGBT, dall'altro invece associando soprattutto il desiderio omoerotico a elementi di anticlericalismo. E in questo caso il desiderio omoerotico è visto in chiave negativa, ecco. Però se ne parla, sebbene se ne parli spesso male, se ne parla, cosa che invece non avverrà più durante il fascismo, cioè c'è proprio una sparizione di queste tematiche. E poi ci sono alcuni testi sicuramente anche illuminati nell'epoca che precede il fascismo, in cui c'è una visione diciamo illuministica, tardo illuministica, anche della sessualità e anche dell'omosessualità, insomma. Quindi ecco, secondo me il periodo precedente al fascismo è un periodo interessante e ancora da approfondire. Che tipo di rapporto c'è stato tra le associazioni LGBTQ e l'editoria LGBTQ? Ma allora, le associazioni, i collettivi, i gruppi LGBTQ hanno sin dall'inizio degli anni 70 influenzato anche l'editoria. Un'editoria che negli anni 70 non era ancora specificamente, per quanto riguarda le case editrici, non era ancora un'editoria specificamente rivolta alle persone LGBTQ, ma che dedicò sempre più spazio a queste tematiche, e lo fece in una maniera fortemente anche influenzata dalle rivendicazioni politiche delle associazioni, dei gruppi, dei collettivi. Quindi l'apporto che questi gruppi, questi collettivi hanno dato all'editoria è stato fondamentale. C'è stato anche un contributo forte, da quello che conosco, dal poco che conosco, nel preservare la memoria editoriale della produzione italiana. Ci sono molte associazioni, molti collettivi, molte realtà che hanno negli anni formato degli archivi, che sono occupati di preservare la memoria del testi che negli anni pian piano rischiano di sparire, e in alcuni periodi storici sono spariti, mi vengono in mente i roghi nazisti in Germania, così come tante situazioni simili anche in Italia. Il ruolo di queste associazioni nel preservare la memoria è ancora qualcosa presente oggi, o è una cosa più legata al passato? No, credo che sia presente anche oggi, anzi vedo che continuano a nascere archivi LGBTQ. Mi sembra che l'attenzione verso il recupero del nostro passato ci sia sempre. Il recupero del nostro passato in Italia è presente sin dagli anni 60. Pensiamo a Massimo Consoli, che è stato uno dei primi attivisti gay italiani. Massimo Consoli, che tra gli anni 60 appunto cercò di creare un archivio gay, poi LGBT. Prima così come archivio personale, poi come archivio istituzionalizzato. Quindi questa attenzione c'è da molto tempo in Italia. Negli ultimi anni vedo che sta nascendo una riflessione sempre più profonda su come valorizzare i materiali contenuti all'interno di questi archivi, e la tendenza è si sta riflettendo su quanto sia importante essere il meno didascalici possibile, per cercare appunto di mostrare questi materiali in una maniera coinvolgente anche per persone magari che non conoscono nulla della nostra storia. E questa credo che sia una riflessione importante. Poi si sta anche riflettendo su che cosa voglia dire il termine stesso archivio. Un archivio che cos'è? Un luogo fisico in cui conservare documenti? Oppure tutti noi siamo degli archivi? Cioè, in realtà qualsiasi persona effettivamente costituisce un archivio. Quindi proprio in seno a questo pensiero vedo sempre di più un'attenzione anche alla memoria orale. Quindi al magari fare interviste a persone che non hanno partecipato alla nascita del movimento in Italia o a persone che hanno comunque qualcosa da raccontare e salvare queste interviste come documenti cartacei, appunto, archiviarle, perché hanno un'importanza a volte anche superiore forse rispetto ai documenti cartacei, perché sono una memoria in prima persona. Se un documento cartaceo a volte è un documento in cui si riporta di un determinato episodio, si racconta di determinati episodi non sempre in prima persona, le interviste in cui qualcuno ricorda un episodio del passato hanno una valenza per certi aspetti anche superiore. Ti faccio ancora un paio di domande, te ne faccio una sulla scia di quello che ti ho chiesto prima. Prima ti ho chiesto qual era il tuo periodo preferito, il periodo storico dell'editoria italiana preferito, e chi è il tuo scrittore preferito? Italiano? Italiano. Io sono profondamente legato a Pier Vittorio Tondelli, devo dire. Probabilmente perché per tanti motivi miei personali, ho studiato a Bologna, conosco i luoghi che vengono descritti in molti suoi libri, quindi c'è un legame, c'è un feeling proprio particolare con i suoi testi. E qual è stato invece lo scrittore più inaspettato che ti sei trovato a scoprire durante la tua ricerca, durante i tuoi anni di ricerca? Probabilmente Mura è una scrittrice attiva soprattutto tra l'inizio del 1900 e negli anni 60-70 del XX secolo. Era una scrittrice di romanzi rosa, non tutti, devo dire, di grande qualità. All'interno però di alcuni suoi testi e in epoca prefascista sono presenti già elementi di protofemminismo. Quindi, ecco, secondo me è una scrittrice interessante che mi ha sorpreso. La conoscevo come scrittrice di romanzi rosa. Ho scoperto poi questi suoi testi, uno ad esempio si chiama Perfidie, venne pubblicato nel 1919, e mi hanno abbastanza sorpreso, perché appunto sono presenti già tematiche protofemministe, anche se devo dire all'epoca il femminismo non era una cosa inusuale, si parla di un periodo in cui era presente la prima ondata di femminismo. Fino ad ora abbiamo parlato principalmente di editoria legata a personaggi e a temi gay e lesbici. Esiste quanto è presente un'editoria legata al mondo trans e al mondo bisessuale in Italia? Allora, provo a rispondere alla domanda sull'emergere tematiche, l'emergere di una trattazione di tematiche bi+ e trans nell'editoria in Italia. Sicuramente per quanto riguarda le tematiche bi+, nel corso di tutto il XX secolo abbiamo una trattazione all'interno di saggistica e di narrativa, una trattazione che fino ad anni recenti, devo dire, oggi possiamo definire senza senza nessuna, diciamo, perplessità come anacronistica. Per quanto riguarda tematiche invece trans, anche queste le si possono ritrovare sia nella saggistica che nella narrativa nel corso di tutto il XX secolo. Per quanto riguarda l'editoria periodica, in particolare, negli anni del secondo dopoguerra, quindi gli anni 50 e 60, c'è un'attenzione particolare alle tematiche trans. Questo perché, ci sono alcune figure, alcune donne trans che, diciamo, riescono ad avere una certa celebrità, ad esempio Roberta Cowell o Coccinelle soprattutto tra la fine degli anni 50 e i primi anni 70, o ancora Christine Jorgensen o April Ashley. Sono tutte figure di donne trans che tra l'inizio degli anni 50 e l'inizio degli anni 70, per vari motivi, perché riescono comunque ad avere una propria visibilità nel mondo dello spettacolo, una propria visibilità nel mondo dell'editoria come autrici di autobiografie, riescono appunto a creare una visibilità trans. E molti giornali, molti quotidiani, settimanali, mensili, anche in Italia, parlano quindi di loro e di conseguenza anche di tematiche trans, quindi anche di donne e uomini trans italiani, figure che oggi magari sono state anche un po' dimenticate. Sicuramente, ecco, la visibilità è maggiore in questo periodo nell'editoria periodica che non invece nella narrativa e nella saggistica, anche se po possiamo averci, cioè, ci sono alcuni testi di narrativa e di saggistica in cui si parla appunto di tematiche trans. Una figura che secondo me è importantissima per una visibilità trans in Italia è Romina Cecconi. Romina Cecconi, che è conosciuta anche come la Romanina, è stata tra la fine degli anni 60, periodo in cui dovette anche fare un periodo di confino, venne arrestata a Firenze e dovette appunto fare alcuni mesi di confino nel sud Italia. E questo le creò una visibilità, ahimè, negativo, soprattutto sui quotidiani. Ecco, tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 fu, diciamo, tra le donne trans che ebbero maggiore visibilità in Italia. Nel 1976 scrisse anche una sua autobiografia che ebbe anche una certa risonanza in Italia. Fu un libro comunque di cui si parlò molto. E quindi sicuramente lei è stata una figura importantissima per la visibilità trans in Italia. Ci sono state poi altre donne trans che sono state importanti sia per una visibilità trans che anche per una per l'aver portato all'interno dell'editoria tematiche trans. Tra queste, ad esempio, Roberta Franciolini, che nel 1970 scrive e fa pubblicare una sua autobiografia. Roberta Franciolini è stata una delle fondatrici del MIT, la prima organizzazione per i diritti delle persone trans in Italia. O ancora Paola Astuni, che pubblica una serie di libri di poesie. Poi in anni più recenti, non voglio dimenticare anche Pina Bonanno, che ha contribuito ad un saggio Donna come donna, in cui si parla della nascita appunto del MIT. In anni più recenti, dicevo, invece, sono usciti saggi e contributi sulla storia trans con un elemento autobiografico, forse non possono essere neanche definiti veri e propri saggi. Sono definiti, io li definirei come appunto libri autobiografici che hanno un elemento storico in sé sicuramente, e scritti da Porpora Marcasciano. E lei sicuramente ha dato un impulso ad una enorme visibilità delle tematiche trans in Italia. Attualmente è la presidente, lo vorrei ricordare, del MIT. E per quanto riguarda invece, ok, qua mi fermo. Poi, mi hai fatto invece una domanda sul fatto su quanti personaggi legati all'editoria in Italia tra fine 800 e primi del 900 avessero fatto coming out. Allora, ti posso rispondere in questo modo. Tra fine 800 e primi del 900 non esiste una visibilità, per come la intendiamo noi, di figure LGBT nell'editoria italiana. Lo stesso Aldo Mieli, che è una figura importantissima, come ho già detto, per la nascita di un movimento in embrione per i diritti delle persone omosessuali, lo stesso Aldo Mieli, appunto, non fa un vero e proprio coming out per come lo intendiamo oggi. Quindi una visibilità vera e propria con un coming out, appunto, per come noi lo intendiamo, non c'è in figure che sono legate appunto all'editoria, che sia editoria periodica o narrativa o saggistica. Sicuramente una visibilità può essere portata avanti non tanto con un coming out, ma aspetta, ok, mi fermo, ridico in una maniera migliore. Allora, secondo me, se parliamo di visibilità per come la intendiamo oggi, in personaggi che hanno fatto parte dell'editoria, che sia editoria periodica o no, tra fine dell'Ottocento e primi del Novecento, non ci sono figure che abbiano fatto un coming out, ma un coming out implicito c'è poi in realtà nei loro scritti. Ad esempio, Sibilla Aleramo ha scritto anche del proprio amore per Cordula Poletti, per Lina Poletti. Aldo Mieli, anche lui, non ha fatto un vero e proprio coming out, ma ha parlato spesso dei suoi legami con il movimento di liberazione omosessuale tedesco, oltre ad aver parlato naturalmente in maniera più vasta di tematiche omosessuali. Quindi ecco, non possiamo parlare di coming out in senso moderno, ma sicuramente di una visibilità di queste persone all'interno dei loro scritti. Secondo te, prima accennavi che ci sono state alcune pubblicazioni, alcune riviste in particolare legate al mondo principalmente gay, ma in realtà non solo, trattavano anche di altri temi, che hanno avuto una vita piuttosto lunga, ma hanno chiuso nei primi anni 2000, intorno al 2009, accennavi a cos'era? Pride, non era Pride, era Babilonia, Babilonia. Babilonia. Secondo te perché in questo momento non c'è una produzione di quel tipo e perché non hanno resistito agli anni 2000, questo tipo di pubblicazione? Beh, sicuramente una pubblicazione cartacea costa di più. E quindi c'è un discorso economico, e in generale, c'è proprio un calo della editoria periodica cartacea, cioè molte riviste anche storiche che sono uscite per decenni in formato cartaceo oggi non esistono più o esistono magari in formato online. Quindi c'è proprio un'evoluzione dell'editoria periodica che non riguarda soltanto l'editoria LGBT+, riguarda tutta l'editoria periodica. Poi ci sono alcuni casi, devo dire che negli ultimi anni c'è una rinascita secondo me delle fanzine. Vedo che molti collettivi stanno creando fanzine, quindi in formato cartaceo, anche molto interessanti, sia per i contenuti che da un punto di vista grafico. Quindi una rinascita forse dell'editoria periodica LGBT+, e queer sta forse partendo proprio dalle fanzine che sono abbastanza numerose in questi anni. Durante la chiacchierata di oggi abbiamo citato molti libri, molte riviste, hai parlato di fanzine, hai raccontato un po' la produzione editoriale a grandi linee che c'è stata in Italia in parecchi secoli. Dove si può avere accesso a questo tipo di materiale? Ma sicuramente per quanto riguarda il materiale pubblicato ora, la cosa che consiglio è seguire eventi legati magari non so, manifestazioni come possono essere Pride, in cui fanzine o bollettini vengono distribuiti. Per quanto riguarda i libri di narrativa e saggistica, ormai si possono trovare ovunque. E per quanto riguarda invece i materiali più vecchi o antichi, ovviamente gli archivi e anche il nostro centro di documentazione ha molti di questi materiali che stiamo proprio in questo periodo catalogando, che è una catalogazione che avrà, diciamo, non sarà una cosa molto breve, probabilmente avremo bisogno di più di un anno per finire di catalogare tutto il materiale, però ecco, se il desiderio è quello di cercare materiali più vecchi, vi invito appunto a visitare gli archivi, i centri di documentazione. Il nostro centro di documentazione al momento non è ancora ufficialmente aperto, però è visitabile. Abbiamo un sito internet che attiveremo nel momento in cui inaugureremo ufficialmente, il sito è www.cidoccaldomieri.com, mentre abbiamo una pagina Facebook che è Centro di Documentazione Aldomieri. Poi abbiamo creato un profilo Instagram in cui ci divertiamo a divulgare materiale che abbiamo in archivio, che si chiama Equeer Archive. Quindi ecco, tramite questi canali potete trovare poi anche, in questi canali troverete anche la nostra email, ci potete contattare e potete fissare un appuntamento e anche se non abbiamo inaugurato ufficialmente possiamo comunque ricevere chiunque, insomma. Il materiale non è tutto catalogato, ma possiamo cercarlo, ecco, per per delle ricerche mirate su determinati materiali, mi ci metto anche io in prima persona, ecco, a cercare il materiale richiesto. Quindi prendete d'assalto immediatamente il centro di documentazione Aldo Mieli, il nascente centro di documentazione Aldo Mieli, e grazie mille, ti ringrazio ancora per essere stato con noi in questa bella chiacchierata oggi. Chiunque volesse saperne di più, ricordo, centro documentazione Aldo Mieli su Facebook, Aquirarchive su Instagram e potete cercarlo anche sul sito internet che trovate appunto anche linkato direttamente da Facebook. Grazie ancora. Un'ultima cosa che vorrei dire, un chiarimento, visto che durante l'intervista a volte ho utilizzato gay, a volte ho utilizzato LGBT, a volte LGBT plus o LGBTQ o queer, ho sempre cercato come posso dire, formulare un acronimo o una denominazione diversa a seconda dell'epoca, perché in alcune epoche certe istanze non erano ancora presenti o erano meno presenti, quindi può sembrare un rendere il tutto più complesso, però secondo me è importante anche essere precisi, quindi ho preferito appunto utilizzare sempre delle formulazioni diverse anche per gli acronimi. Cosa che io non ho fatto perché la precisione non è mai stata il mio forte, ma ti ringrazio molto per questa precisazione e per questa accuratezza nel riportare poi quelli che erano i termini utilizzati nei vari periodi storici. Io sono stato molto molto grossolano, mi scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma tu hai seguito il tutto perfettamente, ti ringrazio ancora tantissimo. Grazie a te, davvero. Grazie ancora e spero ci risentiremo presto e soprattutto quando aprirete il centro di documentazione al pubblico, voglio assolutamente saperlo e saremo lì con voi. Sicuramente ci sarà, quindi insomma, non ti preoccupare che sarete tra le persone ad essere avvisate. Perfetto, ti ringrazio ancora e buona giornata. Grazie, grazie anche a te.